Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tommaso Ragno legge Camera con vista, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Marcella Bonsanti. «Mi considero un uomo fortunato», disse Cecil. «Quando sono a Londra ho l'impressione che non potrei viverne lontano. Quando sono in campagna provo la stessa impressione in senso opposto. Dopotutto credo fermamente che gli alberi e gli uccelli e il cielo siano le cose più mirabili del creato e che quanti ci vivono in mezzo debbano essere migliori degli altri. È vero che 9 volte su 10 sembra che abbiano la benda sugli occhi. Il gentiluomo di campagna e il contadino sono ciascuno a suo modo la compagnia più deprimente che dar si possa. E ciò malgrado paion dotati di una tacita affinità con le opere della natura, che è negata a noi figli della metropoli. Ha anche lei questa impressione, signora Honeychurch?» La signora Honeychurch trasalì e sorrise. Non era stata attenta. Cecil, scomodamente pigiato nel sedile anteriore della Victoria, ne fu stizzito e stabilì che d'ora in poi non avrebbe detto più nulla di interessante. Lucy non era stata attenta neppure lei, aveva corrugato la fronte e appariva ancora furente. «Ecco la conseguenza di un'eccessiva ginnastica mentale», osservò Cecil tra sé. «Peccato vederla così cieca all'amenità dei boschi in pieno agosto. Scendi, o fanciulla, da quell'alta vetta», citò sfiorandole il ginocchio col suo. Lucy arrossì nuovamente e chiese: «Quale vetta?» «Scendi, o fanciulla, da quell'alta vetta», cantò il pastore. «Quale gioia vive in cima ai monti e nel loro splendore? Ascoltiamo il consiglio della signora Honeychurch e smettiamola di detestare i preti. Cos'è questo posto?» «Summer Street, naturalmente», rispose Lucy e si scosse dalle sue riflessioni. I boschi si erano aperti per lasciare spazio a un prato triangolare in pendio. Lo costeggiavano su due lati graziose casette rustiche, mentre il terzo lato, quello superiore, era occupato da una chiesa di pietra, costruita in epoca recente, di una semplicità dispendiosa e con un'incantevole guglia rivestita di assicelle. La casa del signor Bibe era attigua alla chiesa e appena un po' più alta delle altre. Nelle vicinanze immediate sorgevano alcuni grandi manieri, ma restavano nascosti fra gli alberi. Lo scenario richiamava alla mente un'Alpe svizzera, piuttosto che il santuario e il centro di un mondo benestante, e l'unica nota stridente, in tanta armonia, era data da due brutte villette, quelle appunto che avevano contrastato la palma della novità al fidanzamento di Cecil, giacché erano state acquistate da Sir Harry Otway lo stesso pomeriggio nel quale Lucy era stata acquistata da lui. Una di queste ville si chiamava Sissy, l'altra Albert, e i loro nomi non erano solamente impressi a caratteri gotici sfumati sui cancelli dei rispettivi giardini, ma figuravano una seconda volta nei portici, dove seguivano la curva semicircolare dell'arco sull'ingresso in lettere maiuscole a stampatello. Albert era abitato. Il suo giardino, sottoposto a prolungate sevizie, scintillava di gerani, lobeli e conchiglie ornamentali, mentre le piccole finestre erano pudicamente fasciate di pizzo di Nottingham. Sissy era da affittare. Ben 3 cartelli, appesi da 3 differenti agenzie immobiliari di Dorking, dondolavano dalla siepe di cinta per annunziare il fatto tutt'altro che sorprendente. I suoi vialetti erano già tappezzati di erbacce e il prato, non più grande di un fazzoletto, ingiallito dai soffioni. Mentre la carrozza passava davanti alle 2 ville, si aprì l'uscio di Sissy e un signore comparve sulla soglia. «Ferma!» gridò la signora Honeychurch, toccando il cocchiere con la punta dell'ombrellino. «Ecco Sir Harry! Adesso sapremo come stanno le cose. Sir Harry, demolisca immediatamente quella roba!» Sir Harry Otway, che sarebbe superfluo descrivere, si avvicinò alla carrozza e disse: «Ne avevo tutte le intenzioni, signora Honeychurch, ma non posso, davvero non posso mettere alla porta la signorina Flack. Non ho immancabilmente ragione io. Quella donna avrebbe dovuto andarsene prima della firma del contratto e continua a non sborsare un soldo d'affitto dai tempi di suo nipote, eh? Ma che posso farci?» Sir Harry abbassò la voce. «È vecchia. È incredibilmente volgare, quasi inchiodata al letto dagli acciacchi.» «La butti fuori», propose arditamente Cecil. Sir Harry aveva speso dei soldi, e non di meno Summer Street restava più sciupato che mai. A questo punto non poteva far altro che scovare un inquilino ineccepibile per Sissi, una persona ineccepibile sotto ogni aspetto. «L'affitto è ridicolmente basso», spiegò, «e può darsi che io sia un padrone di casa un po' corrivo, ma la villa è di dimensioni così scomode, troppo grande per il ceto contadino e troppo piccola per chiunque appartenga a una sfera sociale non troppo inferiore alla nostra». Cecil era andato chiedendosi se non gli conveniva disprezzare le ville, ovvero disprezzare Sir Harry perché le disprezzava. Quest'ultimo impulso gli parve il più promettente. «Dovrebbe esserle facilissimo trovare un inquilino», disse malignamente. «Questa casa sarebbe il paradiso ideale per un bancario». «Appunto», esclamò Sir Harry eccitato, «è appunto quello che temo, signor Vice, ossia che attiri un certo tipo di gente che non fa per me. Le ferrovie hanno migliorato il servizio, un miglioramento fatale a parere mio. E cosa sono 5 miglia di distanza da una stazione in questi tempi di biciclette? Bisognerebbe che fosse un bancario notevolmente robusto», disse Lucy. Cecil, che possedeva una bella dose di ribalderia medievale, replicò che il fisico della piccola borghesia andava migliorando a un ritmo vertiginoso. Lucy capì che il fidanzato si burlava del loro innocuo vicino e si impose di farlo smettere. «Sir Harry», esclamò, «mi viene un'idea. Che ne direbbe di un paio di zitelle? Mia cara Lucy, sarebbe stupendo. Lei ne ha in mente qualcuna?» «Sì, 2, le ho conosciute all'estero». «E sono autentiche gentildonne?» chiese Sir Harry un po' titubante. «E come? Momentaneamente senza tetto. Ho ricevuto una loro lettera la settimana scorsa. Sono le signorine Teresa e Catherine Allan. Non scherzo mica, sa? Sono proprio le persone adatte. Le conosce anche il signor Bibb. Posso autorizzarle a scriverle?» «Certo che può», gridò Sir Harry. «Ecco dunque risolta la difficoltà. Che bellezza! E godranno di facilitazioni supplementari. Glielo spieghi, la prego, che così non avrò bisogno di pagare i diritti d'agenzia. Queste agenzie, che gente spaventosa mi hanno mandato. Una donna, quando le scrissi, una lettera piena di tatto, badi, per pregarla di specificare la sua posizione sociale, rispose che avrebbe pagato l'affitto in anticipo, come se questo avesse importanza. E poi, il più delle volte, ho ricevuto delle referenze insoddisfacentissime, individui poco raccomandabili o addirittura imbroglioni. E quanta malafede, per giunta! La settimana scorsa mi sono trovato ripetutamente sott'occhio le brutture del mondo. Quanta malafede si cela dietro le apparenze più promettenti! Quanta malafede, mia cara Lucy!» Lucy annuì. «Ascolti il mio consiglio», intervenne la signora Honeychurch. «Lasci perdere Lucy le sue gentildonne decadute. Il tipo mi è ben noto. Dio ci scampi dalla gente che ha conosciuto giorni migliori e si porta dietro certe reliquie di famiglia che spargono odore di muffa per tutta la casa. È triste a dirsi, ma preferirei 1000 volte prendere per inquilino un tizio che stia salendo i gradini del mondo, piuttosto di un altro che li abbia già scesi». «Le signorine Allan non sono affatto così», gridò Lucy. «Sì, invece», ribatté Cecil, «io non le conosco, ma mi permetto di dire che non sarebbero un bell'acquisto per il vicinato». «Non gli dia retta, Sir Harry. Cecil lo dice tanto per darci noia». «Sono io che vi do noia», rispose Sir Harry. «Non dovevo venire a importunare la gioventù con la storia delle mie disavventure. D'altronde sono seriamente preoccupato. E Lady Otway si limita a osservare che la prudenza non è mai troppa, osservazione giustissima, ma che in sostanza non giova a nulla. Dunque, posso scrivere alle mie signorine Allan? La prego di farlo». Ma un'ombra di perplessità oscillò negli occhi di Sir Harry quando la signora Honeychurch esclamò: «Stia attento! Quelle 2 arriveranno senza fallo coi canarini. Si guardi dai canarini, Sir Harry. Sputano i semi attraverso le sbarre della gabbia e allora compaiono i topi. Si guardi dalle donne in generale, affitti esclusivamente a un uomo». «Veramente», mormorò Sir Harry con intenzione galante, benché non gli sfuggisse la saggezza dell'ammonimento. «Gli uomini non spettegolano tra un sorso e l'altro di te. Se si ubriacano, crollano e festa finita. Si mettono tranquillamente a giacere e smaltiscono la sbornia nel sonno. Se sono volgari, non so come succede, ma è un fatto che la volgarità se la tengono per sé. Non dilaga tanto vistosamente. Ha da essere un uomo, mi creda, purché, ben inteso, sia pulito». Sir Harry arrossì. Né lui né Cecil gradivano quei complimenti smaccati al sesso forte. Anche la riserva sull'eventuale sporcizia non conferiva loro una gran distinzione. Invitò quindi la signora Honeychurch a scendere dalla carrozza e a ispezionare Sissi di persona, se ne aveva il tempo. La signora fu beata di accontentarlo. La natura l'aveva destinata a essere povera e a vivere in una casa simile a quella, e poi l'organizzazione domestica l'attraeva sempre, soprattutto quando era di modeste proporzioni. Cecil trattenne Lucy mentre stava per seguire sua madre. «Signora Hanichurch», domandò, «permette che noi due l'abbandoniamo per tornarcene a piedi?» «Ma certo!» fu la cordiale risposta. Sir Harry, dal canto suo, parve fin troppo contento di sbarazzarsi dei fidanzati. Scoccò a entrambi il sorriso trionfante di chi la s'allunga, dicendo «la gioventù, la gioventù, la gioventù!» e ripartì in fretta per aprire la casa. «Cafone nato!» esclamò Cecil, quasi ancor prima che si fossero allontanati abbastanza da non farsi sentire. «Oh, Cecil! È più forte di me. Sarebbe una colpa non aborrire quell'individuo. Non sarà intelligente. Ma è tanto caro.» «No, Lucy. Sir Harry personifica tutto il lato deteriore della vita in campagna. A Londra resterebbe al suo posto. Sarebbe socio di un club di insipienti e sua moglie darebbe degli insipidi pranzi, ma qua giù si atteggia piccolo Dio coi suoi illustri natali, la sua sufficienza e la sua estetica fasulla, e tutti ci cascano, a cominciare da tua madre.» «Quello che dici è verissimo», confermò Lucy, pur sentendosi scoraggiata. «Vorrei sapere, però, vorrei sapere se ha poi questa grande importanza.» «Ha un'importanza suprema. Sir Harry è l'essenza del garden party dove siamo stati oggi, cielo, in che umore bestiale mi ha messo. Spero con tutta l'anima che gli capiti di affittare la sua villa a un inquilino volgare. Magari a una donna di una volgarità così lampante che salti agli occhi perfino a lui. Che razza di nobiltà, con quella testa pelata e quel mento sfuggente. Beh, non pensiamoci più.» Summer Street era situato nel profondo del bosco e Lucy si fermò nel punto in cui una viottola divergeva dalla carreggiata. «Ci sono due strade? Forse è più saggio rimanere sulla via maestra, visto che siamo tutti in gingheri.» «Preferirei proseguire nel bosco», disse Cecil, e dalla sua voce affiorò quell'irritazione mal repressa che Lucy aveva notato in lui durante l'intero pomeriggio. «Perché dici sempre di passare per la strada, Lucy? Sai che da quando siamo fidanzati non sei mai stata una sola volta nei campi o nei boschi con me?» «Davvero? Prendiamo per il bosco, allora», rispose Lucy, impressionata dalla sua bizzarria, ma sicura che la spiegazione sarebbe venuta prima o poi. Non era abitudine di Cecil lasciarla in dubbio sul significato delle proprie parole. Lucy si inoltrò dunque per prima in mezzo ai pini stormienti, e la spiegazione venne infatti quando avevano percorso appena pochi metri. «Mi ero messa in testa, a torto spero bene, che tu ti sentissi più a tuo agio con me in una stanza.» «In una stanza?» fece eco Lucy, irrimediabilmente smarrita. «Già, o tutta più in un giardino o su una strada maestra, mai nella vera campagna, come adesso.» «Oh, Cecil, che diamine vuoi dire? Non ho mai provato una simile impressione. Parli come se io fossi, che so, una specie di poetessa.» «Non escludo che tu lo sia. Ti ambiento in un paesaggio, io, in un dato tipo di paesaggio. Perché non dovresti ambientarmi in una stanza?» Lucy rifletté un momento, poi rispose ridendo. «Ma lo sai che hai ragione? È proprio quello che faccio. Devo essere una poetessa, in fin dei conti. Quando penso a te è sempre come se fossimo in una stanza. Che buffo!» Con sua meraviglia, Cecil apparve infastidito. «In un salotto, di grazia, senza una vista dalle finestre?» «Sì, immagino che la vista non ci sia.» «Perché?» «Preferirei che tu mi ambientassi all'aria aperta», disse Cecil in tono di rimprovero. Lucy ripeté: «Oh, Cecil, che diamine vuoi dire?» Ma poiché questa volta la spiegazione tardava a venire, Lucy lasciò in tronco il soggetto, che riteneva troppo arduo per una ragazza, e continuò a inoltrarsi nel bosco al fianco di Cecil, sostando ogni tanto davanti a qualche raggruppamento degli alberi che le era familiare o che le sembrava particolarmente armonioso. Quel tratto di bosco fra Summer Street e Windy Corner lo conosceva fin da quando era stata capace di muovere i primi passi. Poi ci aveva giocato con Freddy, fingendo di averlo perduto, quando Freddy era un bamberottolo dalla faccia scarlatta, e ora, malgrado il viaggio in Italia, trovava immutato il suo fascino. Dopo non molto arrivarono a una piccola radura in mezzo ai pini, un'altra alpe verde minuscola, ma solitaria questa, che custodiva in grembo un laghetto poco profondo. Lucy esclamò: il lago sacro. Perché lo chiami così? Il perché non lo ricordo più. Immagino che il nome gli sia venuto da un libro. È appena una pozzanghera adesso, ma vedi quel ruscello che lo attraversa? Dopo le piogge abbondanti l'acqua vi si accumula dentro e non può uscirne subito, e allora diventa molto più grande. È bello. In passato Freddy ci faceva il bagno. Lui è affezionatissimo a questo laghetto. E tu? Cecil intendeva chiederle se vi era affezionata lei pure, ma Lucy rispose con sguardo sognante. Anch'io ci facevo il bagno. Però un giorno fui scoperta e allora successe una scenata. In altri tempi Cecil si sarebbe probabilmente scandalizzato, poiché aveva in sé degli abissi di puritanesimo. Ma ora, col suo culto momentaneo dell'aria fresca, fu incantato dall'ammirevole ingenuità della fidanzata. La osservò mentre indugiava sull'orlo dell'acqua. Era tutta in gingheri, come aveva detto lei stessa, e gli rammentò un fiore brillante che non ha foglie di suo, ma spunta in subitaneo rigoglio da un mondo di verde. «E chi fu a scoprirti?» «Charlotte», mormorò Lucy. «Era ospite nostra in quell'epoca. Charlotte, Charlotte». «Povera figliola», Lucy sorrise gravemente. Un certo progetto dal quale Cecil era sempre rifuggito ora gli parve attuabile. «Lucy?» «Sì?» «Credo anch'io che dovremmo rimetterci in cammino», fu la risposta. «Lucy, vorrei chiederti qualcosa che non ti avevo mai chiesto». Colpita dal tono serio della sua voce, Lucy gli si avvicinò, sinceramente desiderosa di compiacerlo. «Che cos'è, Cecil?» «Non una sola volta fino ad oggi, nemmeno quel giorno sul prato, quando consentisti a sposarmi». Cecil, improvvisamente a disagio, prese a sbirciare tutto intorno per accertarsi che non ci fosse nessuno a spiarli. Il suo coraggio era scomparso. «Dunque?» «Non ti ho mai baciata finora». Lucy era diventata di brace, come se Cecil si fosse espresso con estrema indelicatezza. «È vero, infatti», balbettò. «Perciò ti chiedo, posso farlo adesso?» «Naturale che puoi farlo, Cecil. Avresti potuto anche prima, non spetta a me correrti addosso, sai». In quel momento supremo Cecil fu cosciente soltanto di una serie di assurdità. Lucy aveva dato una risposta inadeguata alla circostanza. Si era rialzata la veletta con un gesto così meccanico. Mentre le si accostava, ebbe il tempo di rimpiangere che fosse troppo tardi per tirarsi indietro. E quando la toccò, il pesne d'oro, sbalzato dal suo posto, rimase appiattito in mezzo a loro. Questo fu dunque l'abbraccio. Tommaso Ragno ha letto Camera con vista di Edward Morgan Forster, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it.